Torre, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Una leggera scossa di terremoto si è verificata alle 2.42 di questa notte in Carnia, l'epicentro a sud-ovest di Forni di Sotto, a 14 km di profondità. Il sisma di magnitudo 2.9 della scala Richter non ha creato particolare allarme nella popolazione. Ragazzino di 13 anni cade dalla tettoia del ricreatorio della chiesa di Vermigliano a Ronchi dei Legionari e si ferisce alle gambe. Trasportato in volo all'ospedale di Udine, non è in pericolo di vita. Verso il tutto esaurito sulle montagne della regione per la stagione sciistica che si apre l'8 dicembre. Grazie alla neve caduta nei giorni scorsi è cominciato l'innevamento programmato in tutti gli impianti. Turismo a Trieste anche d'autunno, buona affluenza negli hotel tra promozioni e il richiamo della mostra di Banksy. 20 anni fa l'alluvione di Pordenone, un evento allora considerato straordinario, ma oggi purtroppo sempre più frequente a causa dei cambiamenti climatici. Wendy Schmidt, vincitrice della Barcolana 2022, ha donato $100,000 all'area protetta di Miramare, ma l'evento velico ha raccolto altri €250,000 di donazioni in favore della ricerca, dei meno fortunati e della protezione ambientale. Alla scoperta della riserva della biosfera UNESCO di Miramare attraverso 4 percorsi e 4 storie è l'obiettivo delle Cronache della Biosfera, il primo esempio in Italia di libro gioco pervasivo didattico. Campagna natalizia con vendita di panettoni per sensibilizzare sulla donazione di midollo, un gesto solidale indispensabile per combattere leucemie, linfomi e mielomi. La relazione è cura. Un seminario approfondisce l'importanza degli affetti nei percorsi terapeutici e le strategie per valorizzarlo. A Udine tanto pubblico e tanti acquisti di prodotti del territorio nel fine settimana di Idea Natale. Un annullo filatelico e 2 mostre celebrano i 25 anni del Museo Postale Telegrafico della Mitteleuropa a Trieste. Sport calcio, in Serie C il Pordenone pareggia 2-2 contro la Pro Sesto, confermandosi in vetta alla classifica. Male invece ancora la Triestina, sempre più in fondo dopo la sconfitta casalinga contro il Lecco per 2-1. Basket, la corazzata Udine espugna Ravenna per 82-76. Buongiorno da Lara Zani e Francesca Vigori. In apertura uno sguardo al tempo. Il cielo è nuvoloso sulla parte occidentale della regione, poco nuvoloso a est con nuvolosità in aumento. Le temperature a Trieste 5,5 gradi. Ha iniziato a soffiare il vento da est-nord-est, Bora a 20 km orari. A Gorizia 4 gradi, a Udine 1 grado, a Pordenone 0 gradi. A Tolmezzo 1 grado sotto zero, a Forni di Sopra 2 gradi sotto zero, a Piancavallo meno 3, a Tarvisio meno 4,5, a Sappada meno 6, sul Monte Zoncolan meno 2,5 gradi, su Lussari meno 3, a Grado e Lignano 7 gradi. Le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per oggi. Cielo da nuvoloso a coperto, verso sera sarà possibile del nevischio o deboli nevicate sui monti, specie in Carnia, oltre i 600-800 metri. Soffierà bora moderata su costa e zone orientali, temperature massime in diminuzione. Una scossa di terremoto di 2.9 gradi della scala Richter si è verificato questa notte 6 km a sud-ovest di Forni di Sotto, con epicentro a 14 km di profondità. Il sisma è stato registrato dai sistemi di monitoraggio dell'OGS alle 2.42 della notte. La scossa non ha creato particolare allarme nella popolazione, nessuna segnalazione è giunta al centralino dei Vigili del Fuoco di Udine. Un ragazzino di 13 anni è caduto da una tettoia a Vermigliano di Ronchi dei Legionari, è atterrato su alcuni elementi in ferro e ha riportato diverse lesioni agli arti inferiori. Dopo la chiamata di aiuto, la centrale della Sores ha inviato immediatamente sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Monfalcone e l'elisoccorso. Il ragazzino è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, stabile, non in pericolo di vita. Il fatto è avvenuto nel ricreatorio locale dove si stava svolgendo una festa. A quanto si è appreso, il ragazzino avrebbe attraversato una piccola tettoia in plexiglass tra 2 aree del ricreatorio, ma la struttura non ha retto il peso. Negli impianti sciistici della regione è cominciato l'innevamento programmato grazie alla base di neve naturale caduta nei giorni scorsi e gli operatori turistici della montagna guardano con ottimismo alla stagione. I primi assaggi sono la prevendita degli ski pass, oltre le aspettative, e le prenotazioni per il Ponte dell'Immacolata, che sono veramente tante. Sentiamo. Pochi giorni dopo la prima nevicata fino a Fondovalle, anche gli impianti di innevamento programmato sono entrati in funzione grazie alle temperature sotto zero. Sicuramente produrranno neve fino a martedì, oltre i 1000 metri, in tutte le località sciistiche del Friuli Venezia Giulia. È una buona premessa in vista dell'apertura degli impianti di risalita fissata per l'8 dicembre. Le condizioni meteorologiche sommate alla voglia di vacanza hanno dato un notevole impulso alle prenotazioni alberghiere anche per il ponte dell'Immacolata. A Tarvisio e Sappada sta andando benissimo, meglio degli anni passati, anche del periodo pre-pandemia, al punto che diventa difficile trovare un posto e il resto dell'inverno si presenta con ottimi auspici tra eventi di richiamo e manifestazioni come EIOF che riempiranno le strutture ricettive. A Forni di Sopra, per tradizione, la breve vacanza dell'8 dicembre non comporta una corsa alla prenotazione, ma da Natale a metà marzo gli alberghi sono praticamente pieni. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Il terziario con il turismo culturale continua a far correre l'economia del capoluogo regionale, dove in questo periodo un po' fuori stagione si è aggiunto il potente traino della mostra sul misterioso graffitaro Banksy, autore di murales nei luoghi più tormentati del mondo. Solo per visitare questa città, perché ho sentito è molto bella. Bellissima dal punto di vista architettonico. Molto ordinata, molto pulita. Turisti anche in novembre a Trieste, soprattutto nei fine settimana. Una stagione positiva, quella che si concluderà con le vacanze natalizie, che segna già una crescita delle presenze pari al 10-15% rispetto al 2019. Maurizio Giudici, vicepresidente di Federalberghi Trieste. Vedere dei weekend così popolati è sicuramente di buon auspicio per tutta la stagione invernale, fermo restando che ci attendiamo un buon dicembre, cioè partiranno i mercati di Natale. A trainare gli ultimi arrivi, oltre al clima favorevole, la cultura, dalla mostra dei macchiaioli al Museo Re Voltella a quella di Banksy appena inaugurata nel Salone degli Incanti. Da Palermo. Banksy, ieri pomeriggio. E oggi ci siamo invece dedicati al Palazzo Re Voltella, città a misura d'uomo. Riesci a camminare senza sentire il traffico delle auto. Un incentivo a visitare la città arriva dalle promozioni della regione, la card gratuita per ingressi scontati nei musei e i rimborsi dei biglietti di Trenitalia. Sui treni è un'iniziativa nuova, stiamo ricevendo ottimi riscontri. E il fatto che un cittadino possa venire pernottando almeno solo una notte in città e comprando l'FVG card, speriamo che questa attività che la città ha messo in pista sia un buon antidoto per il periodo che stiamo vivendo. Mentre si guarda con fiducia alle prossime festività natalizie, sul settore pesa il caro energia. Alcuni albergatori hanno già annunciato la sospensione dell'attività a febbraio per i costi troppo elevati. Elena Scarrone, TGR Friuli, Venezia Giulia. 20 anni fa la grande alluvione di Pordenone, su questo tema si terrà un incontro con testimonianze al Teatro Verdi questa sera alle 20.45. 2 decenni non sono passati invano e molto è stato fatto per mettere in sicurezza il territorio. Il 27 novembre 2002 Pordenone si svegliò assediata dall'acqua del Sononcello. Le strade della zona sud della città si trasformarono in canali dove ci si poteva muovere solo con le barche. 1200 persone furono evacuate, centinaia di negozi e attività imprenditoriali distrutti dall'alluvione. I pordenonesi erano abituati alle piene del fiume, chiamate montane per indicare l'acqua che si alza, ma quell'anno la violenza fu tale da rompere l'argine. I soccorsi si mossero subito per portare spesa e medicine alle persone bloccate in casa. Roberto Bidinost, vigile del fuoco Pordenone. Ricordo quella mattina di aver ormeggiato, e spesso quando passo adesso me lo ricordo, l'imbarcazione sulla ringhiera di una casa per poter poi riuscire a far evacuare delle persone anziane che vivevano isolate con solo acqua attorno. 900 privati e 140 ditte riuscirono a risollevarsi grazie alla buona volontà e ai ristori della regione. I titolari di alberghi e ristoranti della zona non dimenticano quei giorni. È andato sotto tutto, cioè avevamo 4 metri di acqua, abbiamo distrutto tutto e abbiamo perso tutto. Ci siamo rimboccati le maniche immediatamente e abbiamo iniziato per riprendere, per non far rimanere i nostri clienti, alcuni sono rimasti addirittura nelle stanze bloccati. Negli anni successivi diverse opere di ingegneria idraulica hanno protetto la città da eventi meteorologici estremi, diventati sempre più frequenti con la crisi climatica. Nino Aprilis, ingegnere responsabile della diga di Ravedis. La diga di Ravedis è diventata pienamente operativa dopo il 2014. Nel contempo la regione ha fatto diaframmare sia tutti gli argini del Meduna in destra e sinistra, e l'argine del Noncello è stato diaframmato ovunque, è stato anche rialzato perché adesso siamo una quota superiore a quella dell'epoca. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. La legge di stabilità regionale, una manovra che sfiora i 5 miliardi di euro, comincia questa mattina il suo iter nelle commissioni consiliari. La Prodi in aula poi a metà dicembre. A riunirsi per approfondire i documenti della manovra di bilancio comincerà la prima commissione, che presieduta da Alessandro Basso di Fratelli d'Italia e integrata dai presidenti delle altre commissioni, si ritroverà dalle 10 alle 12. In tale occasione la Giunta regionale illustrerà gli strumenti della sessione di bilancio, farà seguito l'audizione del Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, il CAL, chiamato a esplicitare a sua volta la posizione dell'organo sui tre disegni di legge, ossia la legge collegata alla manovra di bilancio 2023-25, la legge di stabilità 2023 e il bilancio di previsione per gli anni 2023-25. Condivido le considerazioni del Presidente nazionale dell'UPI. Depotenziare le province ha indebolito il territorio di fronte ai fenomeni di dissesto idrogeologico. A maggior ragione averle abolite in Friuli Venezia Giulia è stato un clamoroso errore. Lo ha affermato l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, per il quale occorre aumentare le funzioni delle province e perseguire l'obiettivo di rafforzarne gli organi e di dotarle di maggiore personale. Per questo, aggiunto, andiamo avanti in maniera risoluta nel percorso di ricostruzione partito con gli EDR. Ma il consigliere regionale del PD, Franco Jacob, parla di speculazione sulla tragedia di Ischia per sostenere il ripristino delle province in Friuli Venezia Giulia. In 5 anni, è l'opinione di Jacob, la Lega non ha saputo partorire un'idea moderna di enti locali e ora, per giustificare il ritorno al passato, si inventa per le province competenze che in Friuli Venezia Giulia sono della regione autonoma. Jacob sottolinea che la prevenzione del rischio idrogeologico e la sistemazione ambientale e manutenzione idraulica da sempre in Friuli Venezia Giulia è azione della regione. Vorrei proprio sapere, conclude, cosa pensano gli assessori Scoccimarro, Zanier e non ultimo Riccardi dell'idea di Roberti di trasferire la competenza della salvaguardia e difesa del territorio alle ipotetiche e fantomatiche nuove province, che oggi sono ancora enti di decentramento regionale che si occupano di edifici scolastici e strade intercomunali. La vincitrice dell'ultima barcolana, l'americana Wendy Schmidt, proprietaria di Deep Blue, ha devoluto $100,000 all'area marina protetta di Miramare, gestita dal WWF. Un segno di stima e amicizia nei confronti della città di Trieste e del suo mare. La notizia è stata diffusa in occasione delle premiazioni per la 54esima edizione della barcolana, ieri a Rossetti. Non solo la passione per la vela, ma anche il supporto al sociale e la sostenibilità sono le impronte distintive della 54esima edizione della Barcolana, così come sottolineato nella cerimonia di premiazione che si è tenuta a Trieste, al Teatro Rossetti. Spiega il presidente della società velica Barcolana Grignano, Mitja Jaluc. È stata una barcolana di solidarietà perché abbiamo raccolto più di 350.000 euro per diverse cause importanti, la ricerca contro il cancro e il supporto alla riserva marina di Miramare. Wendy Schmidt, la vincitrice, ha donato infatti $100,000 alla riserva marina di Miramare. Quindi barcolana che sa essere un forte volano per l'economia del territorio, ma barcolana che è anche un'occasione di solidarietà, di supporto del sociale. La nostra sovvenzione sosterrà il lavoro del biodiversitario marino di Miramare per connettere le persone al mondo marino in modo che possano comprenderlo, amarlo e proteggerlo, ha dichiarato la vincitrice Wendy Schmidt nel suo messaggio video proiettato nel corso della cerimonia, in cui ha spiegato quanto sia rimasta colpita dall'impegno di organizzatori e sponsor per promuovere un uso responsabile dell'acqua e ridurre i rifiuti. Oltre alla donazione di Wendy Schmidt, 250.000 euro sono stati donati da equipaggi, appassionati di vela, partecipanti agli eventi della manifestazione, imprese a favore di piccoli e grandi cause, dalla ricerca scientifica alla protezione dell'ambiente, fino al supporto del terzo settore. Trieste, Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia. 4 percorsi e 4 storie per scoprire la riserva della biosfera UNESCO di Miramare, in maniera divertente e coinvolgente. È l'obiettivo delle cronache della biosfera, che sarà presentato alle 18 al Caffè San Marco di Trieste, il primo esempio in Italia di libro gioco pervasivo didattico, che unisce meccaniche da caccia al tesoro, escape room, percorsi a scelta multipla ed enigmi. A presentarlo è Diego Manna, autore di testi ed enigmi, mentre le illustrazioni e la grafica sono di Sara Paschini. un libero gioco, nel senso che serve proprio per giocare, pervasivo perché necessita della presenza fisica nei posti dove è ambientato, didattico perché ha uno scopo assolutamente didattico. In pratica come funziona? Ci sono quattro storie ambientate in quattro sentieri della riserva della biosfera di Miramare. Queste quattro storie raccontano un po' tradizioni e racconti di cose vere successe in queste zone nell'arco dei secoli nella storia di Trieste. Si entra quindi in contatto e a conoscenza con il protagonista della storia. A fine del primo paragrafo ci sarà già una prima scelta di dove poter andare, quindi non si andrà al secondo paragrafo, ma come proprio nei libri gioco si andrà a un paragrafo diverso, che può essere il 23, il 28, il 17. La cosa curiosa è che spesso questi paragrafi saranno indicati da enigmi di cose presenti fisicamente nel sentiero. Questo obbliga proprio a essere lì per poter andare avanti con la lettura. Quindi l'obiettivo è quello di portare le persone a visitare la riserva. Sì. L'obiettivo del libro è quello di portare le persone a visitare i sentieri della riserva, fargli conoscere alcune storie che magari sia i turisti ma sia anche i triestini non conoscono, e anche di scoprire le particolarità del sentiero, perché nel libro ci sono molti approfondimenti sia naturalistici sia culturali proprio su cose che il lettore si trova davanti in quel momento. I rincari energetici che stanno da mesi mettendo a dura prova le imprese passeranno sotto la lente di ingrandimento del convegno organizzato da Confartigianato Imprese Udine, Energia e Economia, il ruolo degli artigiani, in programma dalle 9.30 nella sede del CAFC di Udine. L'incontro vedrà la partecipazione fra gli altri del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, del Presidente di Confartigianato Imprese Udine Graziano Tilatti e di Nicola Serio dell'Ufficio Studi di Confartigianato Udine, che nell'occasione presenterà il report Energia tra realtà e percepito, con dati utili a inquadrare lo stato di avanzamento della transizione energetica in regione e le imprese che stanno pagando maggiormente l'aumento dei costi. La donazione del midollo si affianca a chemio e radioterapia contro le leucemie, i linfomi e i mielomi, ma la compatibilità genetica tra donatore e paziente è bassa, 1 a 100.000. Per sensibilizzare il pubblico a diventare donatore di midollo, l'associazione ha lanciato una nuova campagna natalizia. Panettoni solidali a Sagrado, Corona di Mariano, Lucinico, Pagnacco, Cimolai, Scodroipo, Erto e Casso e Arba in Valmeduna. I volontari dell'ADMO in campo per il traguardo dei 1000 nuovi iscritti nel 2022, ora sono 900. Anche se ormai ho qualche anno in più e non posso più partecipare alla donazione del midollo, è stato un piacere contribuire a questa campagna dell'ADMO e poi insomma i panettoni sono anche buoni. La donazione del midollo si affianca alla chemio e radioterapia contro le leucemie, i linfomi e i mielomi. Qualsiasi donazione è un segno di profondo amore verso il prossimo ed è anche un'azione coraggiosa. La compatibilità genetica tra donatore e paziente è di 1 a 100.000, per questo il database è internazionale. Il giovane Luca Boscolo di Sagrado ha fatto il primo passo. Questo settembre mi sono tipizzato facendo l'analisi preliminare per essere inserito nel registro dei donatori. Un modo per mettermi in gioco e dare un aiuto concreto alla società e a chi ne ha bisogno. Paola Rugo, presidente dell'Associazione Donatori di Midollo Osseo del Friuli Venezia Giulia. Per potersi iscrivere al registro dei donatori di midollo osseo bisogna avere un'età ricompresa tra i 18 e i 35 anni, almeno 50 kg di peso e un buono stato di salute. Per fare poi l'iscrizione vera e propria bisogna fare un piccolo prelievo di sangue oppure attraverso un kit salivare. Le possibilità di donazione poi possono avvenire tramite il prelievo dalle creste iliache oppure tramite una plasmaferesi del sangue. Donatore e ricevente non potranno mai conoscersi, però è previsto un piccolo scambio epistolare gestito dall'ospedale. Io ho avuto la possibilità di leggere alcune di queste lettere e sono veramente un inno alla vita. Sagrado, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. La relazione è cura e uno degli effetti della pandemia è stato proprio quello di mettere in evidenza l'importanza degli affetti nei percorsi di cura. Se ne parlerà nel corso del seminario in programma oggi dalle 16 nel Dipartimento di Studi Umanistici di Via Baciocchi a Trieste. Sentiamo il coordinatore del corso Health Humanities dell'Università di Trieste, Gianfranco Sanson. Il ruolo delle relazioni nei luoghi di cura è un ruolo che è estremamente importante, che viene vissuto con visioni diametralmente opposte a volte purtroppo dagli assistiti, dai familiari e da chi opera poi nei contesti di cura assistenza per svariate ragioni, perché è un tema di una estrema complessità, è un tema che ha implicazioni cliniche innanzitutto perché la letteratura scientifica è ricca di prove a supporto del fatto che il ruolo dei familiari e altre persone significative a fianco delle persone malate nei percorsi di cura generano esiti favorevoli sulla riduzione della vulnerabilità, della fragilità e sul miglioramento in generale di esiti di salute, ma è anche un tema che ha pesanti implicazioni etiche e deontologiche perché le relazioni affettive nei luoghi di cura e assistenza sono un diritto e non ultimo ha implicazioni pesanti dal punto di vista organizzativo perché soprattutto nei setting peracuti è necessario porre delle regole per poter gestire un afflusso che si concili con i tempi della cura e dell'assistenza. Che cosa si può fare per valorizzare queste relazioni nelle nostre strutture sanitarie? Innanzitutto aumentare la consapevolezza dell'importanza, non relegare le relazioni a un obiettivo di seconda linea o di nessuna importanza, ma metterle allo stesso livello dell'importanza di erogare cure sicure di grande efficacia sia nei setting per acuti sia nelle strutture di degenza per la cronicità, per le lunghe cure di lungo termine, perché soltanto se avremo la consapevolezza che garantire le relazioni ha la stessa importanza che garantire buone cure e buona assistenza, perché la relazione è cura. Una volta che avremo maturato questa consapevolezza, a mio avviso tutto diventerà più semplice, perché poi le soluzioni organizzative si trovano, chi ha voluto, chi ha cercato, chi si è dato da fare per trovarle, le ha trovate anche in pieno tempo di pandemia. Manca meno di un mese, il 25 dicembre, questo è stato il fine settimana di Idea Natale. Tanto pubblico e anche tanti acquisti dei prodotti del territorio. Chiusura con il botto a Udine per la 33esima edizione di Idea Natale, la vetrina dedicata al rito e al piacere del regalo. Un appuntamento per promuovere imprese, artigianato, cultura e territorio e per accompagnare i visitatori nella scelta del regalo. Un'edizione più concentrata quella di quest'anno, in 3 giorni invece dei 4 delle passate edizioni. Tanti gli eventi che si sono svolti, tra cui la rassegna per le scuole di danza. Malgrado la tecnologia la faccia da padrone, tra i giovani il libro è uno dei regali che non tramonta mai. Chiara Tirindelli, espositrice. La prima volta che partecipiamo e non ci aspettavamo che andasse così bene, sinceramente, dopo il periodo del Covid, quindi siamo molto contente. Tutta la parte per bambini, dagli albi illustrati alla raccolta di fiabe, rimane il libro più venduto, dai quelli per più piccoli fino agli adulti, assolutamente. Non solo regali di tutti i tipi, ma tra gli espositori un occhio di riguardo anche al terzo settore, al no profit, che propongono idee regalo solidali. Benedetta De Cecco, consigliera Madrax Udine. Sta andando molto bene, siamo molto contenti di essere qui anche quest'anno. Noi appunto facciamo parte del gruppo delle associazioni, siamo qui per promuovere la nostra attività e siamo molto contenti dei tanti sorrisi che abbiamo ricevuto. E tra le migliaia di offerte di regali anche mete turistiche. Monica Bertarelli, direttore del Consorzio Turismo di Sappada. Quale miglior regalo se non una vacanza o un soggiorno in montagna, sulla neve, dove ci sono cultura, storia, tradizioni, buona cucina? Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Poste Italiane celebra i 25 anni del Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa di Trieste con un annullo filatelico temporaneo disponibile oggi dalle 8.20 alle 13.35 nel Palazzo di Via Vittorio Veneto 1 e la possibilità di visitare dalle 9 alle 17 con l'accompagnamento di una guida il museo stesso e due mostre, 25 anni al fianco dei triestini e 160 anni al fianco degli italiani. A presentare il museo è la curatrice Chiara Simon. Un museo specializzato in una tematica particolare, quella postale, che vuole presentare non oggetti eccezionali, ma diciamo frammenti di una cultura materiale che senza il museo chiaramente sarebbero andati perduti. E per cui l'esposizione si caratterizza nel presentare reperti materiali assai diversi fra loro, come la borsa del portalettere, il francobollo prezioso, il timbro originale delle primi Novecento, per dare appunto un percorso di storia postale poco conosciuta e non studiata assolutamente a scuola. Oggi sono visitabili anche due mostre. Che cosa propongono? Una riguarda proprio il museo stesso, dal titolo I 25 anni al fianco dei triestini, dove ripercorriamo attraverso una trentina di pannelli i momenti più salienti proprio della storia e della vita di questo museo. E poi invece altri 30 pannelli ci ricordano un altro importante compleanno, quello dei 160 anni di vita di Poste Italiane, e attraverso anche qui dei pannelli esplicativi raccontiamo proprio tutto il percorso storico fatto da questa grande azienda italiana dalla sua nascita, cioè il 1862, fino ai nostri giorni. Si esibisce per la prima volta a Trieste l'astro del violino Daniel Lozakovic, il musicista 21enne svedese che suona dall'età di 6 anni, ha esordito a 8 con i virtuosi di Mosca e Vladimir Spivakov e in pratica non si è più fermato. La medaglia d'argento ottenuta al concorso Menuhin del 2014 è stato il suo trampolino internazionale, tanto da essere chiamato ospite delle sale più prestigiose da Mosca a Vienna a Berlino. Lozakovic sarà alle 20:30 al Teatro Verdi di Trieste. A causa del conflitto russo-ucraino non potrà invece essere presente il suo accompagnatore, il pianista Stanislav Soloviev. Lozakovic dunque si esibirà da solista. In programma la partita numero 2 di Bach, la sonata per violino solo numero 5 di Isaie, il capriccio 24 di Paganini, la paganiniana per violino solo di Nathan Milstein. Checco Zalone è in scena al Politeama Rossetti, oggi e domani alle 21, con il suo nuovo spettacolo Amore più IVA, scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino. Show inedito con musica, racconti, imitazioni e parodie. A Teatro Zalone ritorna 11 anni dopo i trionfi del Resto Umile World Tour e per l'occasione ha varato la canzone Sulla barca dell'oligarca. Siamo allo sport, il calcio di Serie C, il Pordenone con il pareggio 2-2 contro la Pro Sesto rimane in vetta alla classifica, la Triestina invece sempre più in fondo con la sconfitta a Rocco contro il Lecco per 2-1. Il Pordenone rimane in piedi e in testa alla classifica. Per la Triestina un altro passo verso il precipizio. I neroverdi di Di Carlo sul campo di Sesto San Giovanni vanno in vantaggio con Pinato di testa alla mezz'ora e non sfruttano un paio di occasioni per il raddoppio con Aieti e Candellone prima di subire il gol della Pro Sesto di Capogna. Nella ripresa alla rete della formazione lombarda di Bruschi su rigore per fallo di mano di Aieti risponde Candellone che di destro batte Del Frate e rende prezioso il punto esterno con conquistato in rimonta. E anche il punto esclamativo dell'attaccante neroverde sulle sue 101 presenze con i ramarri. La squadra di Di Carlo mercoledì affronta la Pro Patria, ancora da prima in classifica a quota 30 punti, più 3 sul Lecco. Lombardi, allenati da Foschi, però più vicini. Grazie alla vittoria allo stadio Nereo Rocco, la Triestina cade ancora una volta, ottava sconfitta in 15 gare per la squadra di Pavanel. Lecco in gol subito al terzo minuto con Pinzauti. Prima del 20esimo il pareggio che accende la speranza del tifo alabardato di Simone Ganz, ex della partita. Nella ripresa l'occasione di Felici è annullata da Malgrati. Illusione per i tifosi mortificata dalla rete di Girelli che a metà della ripresa batte il portiere della Triestina, Mastrantonio. Il tecnico Pavanel ora è a rischio esonero anche se sembra il meno colpevole della crisi alabardata con la squadra che ha soltanto 2 punti in più dell'ultima in classifica, il Piacenza, che proprio mercoledì ospiterà la Triestina in una sfida al 30 novembre, già da ultima spiaggia. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ancora calcio in Serie D, terza vittoria consecutiva per il Torviscosa che espugna il Mecchia di Portogruaro grazie a un rigore trasformato da Grudina. Il Charlin Smuzzane si ferma sullo 0-0 con la Dolomiti e scivola all'ultimo posto in classifica. Basket, l'APU Old Way West Udine ha vinto in trasferta a Ravenna per 82-76 e vola verso la testa della classifica di Serie A2 a 14 punti. Assoluto protagonista della partita è stato Isaia Briscoe, top scorer con 26 punti e 32 di valutazione complessiva. Prossimo appuntamento domenica 4 dicembre alle 18 al Pala Carnera contro Chieti per il 10° turno del girone rosso di Serie A2. Cividale sconfitta sabato scorso da Ferrara è quarta. Volley nella due donne, la CDA Talmassons supera per 3-0 alla tisana Lipag Sorelle Ramonda Montecchio, seconda forza del girone. Trasferta amara in Calabria invece per l'Itas Martignacco, che a Soverato interrompe una serie di risultati positivi cedendo al quinto set. Per la due uomini, la Tinet Prata in formazione sperimentale, sconfitta a Cuneo. Siamo alla rassegna stampa, in prima pagina del piccolo edizione di Trieste, la ricerca di possibili soluzioni sul sito di Bagnoli, dal settore militare alle turbine a gas, ipotesi per Wärtsilä, il titolo. Due multinazionali, la tedesca Rheinmetall e la giapponese Mitsubishi, si sono fatte avanti per dare un futuro industriale allo stabilimento di Trieste. Hanno fatto le loro proposte al Ministero delle Imprese. Un'altra ipotesi è legata a un intervento diretto dello Stato. Sempre in prima pagina, la donazione di $100,000 al Bioma di Miramare da parte di Wendy Schmidt, vincitrice della Barcolana. Capocronaca di Trieste su un'importante opera pubblica. Trivković, ultimi giorni, da oggi la fase decisiva del piano di demolizione. Dopo lo svuotamento degli interni entra in azione la pinza meccanica destinata a dare colpo di grazia. Entro fine settimana la parte portante sarà rasa al suolo. L'apertura di Gorizia è dedicata alla viabilità cittadina. A febbraio le piste ciclabili in Corso Italia. La cronaca di Monfalcone apre con le modifiche al regolamento della polizia locale. Vetrine pulite e merce in negozi ordinati per consentire le verifiche da parte degli agenti della municipale. Il Messaggero Veneto di Udine apre con la notizia del ritorno dei voucher nei settori del turismo e dell'agricoltura, un provvedimento sul quale sindacati ed esercenti si dividono. Al centro la fotonotizia della mongolfiera atterrata su un albero ieri a Sedegliano. Ancora per la cronaca, il rovesciamento di un tir a Dignano, mentre la prima pagina di Udine è dedicata alla sanità con la decisione della SUFC di spostare l'hospice trasferendo i 15 posti letto per i malati terminali alla Quiete. Nelle pagine di Pordenone l'annuncio del ricordo dell'alluvione di 20 anni fa, questa sera al Teatro Verdi. Spazio anche a un convegno sulla città che si spopola, al messaggio ecologista del Vescovo in occasione del ringraziamento e all'annullamento della multa a una donna ultracentenaria e ad alcuni settantenni non vaccinati a Sacile. Per la cronaca, la tragedia del 66enne di Castelnuovo del Friuli scivolato durante una passeggiata e ritrovato senza vita. In prima pagina su Gazzettino, la donna di 103 anni non vaccinata di Sacile, che vistasi annullare la multa, annuncia di voler destinare i 100 euro in beneficenza. Un richiamo è dedicato poi al capocronaca delle pagine di Pordenone, il piano da 41 milioni di euro delle DR per i ponti da controllare. Al centro la fotonotizia con il messaggio del Vescovo Pellegrini nella giornata del ringraziamento: preserviamo il futuro ai nostri giovani. E ancora l'allarme per la dipendenza da gioco d'azzardo. In regione rischiano soprattutto gli over 40. Nell'edizione del Friuli spicca l'immagine della mongolfiera finita contro un albero a Sedegliano, con gli occupanti salvati dai vigili del fuoco. E di taglio centrale anche il Natale al risparmio di alcuni comuni. Cividale spegne le luminarie, mentre a Palmanova saranno i cittadini ad addobbare gli alberi. Continuano gli appuntamenti dedicati al tema della violenza sulle donne. Sarà Claudia Segre, una delle più accreditate esperte di finanza e attiviste per la parità di genere in Italia, fondatrice e presidente di Global Thinking Foundation, la relatrice di punta del convegno Violenza economica ed educazione finanziaria, riconoscerla per combatterla, che è in programma dalle 17 nell'ex convento di San Francesco a Pordenone. Il 25 novembre non basta, riscriviamo il nostro destino. Sono questi il titolo e il claim scelti dall'amministrazione comunale di Clout per l'appuntamento in programma alle 20:30 nella sala convegni del paese, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Interverranno i membri dell'associazione in prima persona Uomini contro la violenza sulle donne e lo staff del centro antiviolenza Voce Donna Onlus. La serata sarà moderata dalla giornalista Martina Gersetti. Ad accompagnare la serata finale della 16ª edizione della rassegna Gli Occhi dell'Africa ci sarà la musica di Jali Babu Zaho alle 20:45 a Cinema Zero. Artista originario del Gambia, in Italia da molti anni, cantante e suonatore di kora, strumento a corde tipico dell'Africa occidentale, la cui arte si tramanda di padre in figlio, Jali Babu Zaho ha da poco pubblicato Tamalla, il suo album di debutto. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e l'edizione flash del giornale radio. A seguire il consueto appuntamento con Veo Fevelin D, che parlerà dell'attività della direzione centrale dell'assessorato regionale al lavoro, che ha reso possibile un incrocio tra domanda e offerta per 40 aziende artigiane e 82 offerte sul territorio udinese. Alle 11.20 circa andrà in onda la prima puntata di Tra le parole e il cuore. A mezzogiorno la voce di Calliope. Ed è tutto per questa prima edizione del giornale radio regionale. Da Lara Zani e Francesca Vigori che lo hanno redatto e condotto. Federico Comar che ha curato la parte tecnica. Manuel Bussani in redazione. L'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.